Suo inizio e si aprono con la sua fine. Nel mezzo c'è tutta un'elaborazione di pensiero, di riflessioni che indipendente perché crede nel concetto stesso dell'indipendenza, del pensiero libero, quello fatto di espressione personale, del modo essere. volete comunicare con Out of the Shell 2 sono i canali che sono messi a vostra disposizione. Uno, come lo chiamo io, immediato, ed è quello che potete inviare le vostre mail. OTS@libero.it è l'indirizzo con cui potete comunicare. Poi c'è un canale diretto immediato che anche tra di noi utilizziamo, e quello che io chiamo è comunicare con l'orso, perché è con lui che in fondo si va a comunicare. Dovete utilizzare il Messenger e entrare in contatto con ciò. L'indirizzo da cercare è, come a me fa ridere dire, è forse la cosa che aspettano tutti nel momento stesso in cui comincio a comunicare: car@hotmail, l'indirizzo a cui dovete fare riferimento, chiaramente. Car si scrive car@hotmail.it. Radio transizione di fase, radio transizione di fase, radio transizione di fase. Sì. Questa è la radio che ascolti nella tua città, in ogni luogo lei ti accompagnerà, se tu lo odi la gente di più, di più. Ehi, è la tua radio, non vive di pubblicità, ad ogni orario trasmette la realtà, transizione di fase, dal sud, dal sud. Sì. Non è la radio commerciale con le hip parade o con le solite voci di quei DJ. Radio ribelle spinge contro informazione, la censura non fa i tagli come Miracle Play. Dal sud al nord ovunque resta connesso, la guerriglia passa dalla rete adesso. È così che qui noi facciamo resistenza, radio transizione di fase contro tendenza. Yo, Calafro Sound, radio transizione di fase, guerriglia in strada nell'etere in rete. Sin ha, straight from Calabria, you know? Camina! Thank you.

sulle spalle la tua terra, la memoria, l'alba dei cent'anni sei. Il vento libera i sogni dai pensieri in te. La vita ce lo dice tutti i giorni, solo non resisti senza ne sognare. Smetti di sognare, ma ti è stato mai girata, tu non sei vince mai. Ritorna solamente alla tua terra, pelle colorata degli amici te.

contrasti il male, unico

Per tutti i radioascoltatori abbiamo una musica fatta esclusivamente con la bocca, così. Questa è Radio Transizione di Fase e siamo Out of Shell. Alzo il volume della radio, arriverò all'ultimo stadio. Non mi chiamate, non risponderò, tanto che ora sto sintonizzato. Ma se ti senti incazzato, apri la bocca e dai il fiato. Contro il bavaglio di stato so che combatterò come un soldato. Sentimi, hey, non manda la pubblicità, non manda gli spot. Senti l'energia come un elettroshock. Suona alternativa 24 non stop. Se tu cerchi rock oppure il reggae, l'hip-hop, te lo dico con le rime e con la voce che c'ho. Trasmette in diretta dalla vetta al top. E libera, libera, libera, antifascista. Libera, libera, libera, antirazzista. Radio Transizione di Fase, quello che senti. Pronta a dare voce forte a tutti i resistenti. Fuori dallo schema del sistema, sta con chi si schiera. Ne vale la pena, te lo dico ora, mi senti? Mi senti o no? Mi senti o no? Il volume della radio arriverò all'ultimo stadio. Se non mi chiamate non risponderò. Ma se ti senti incazzato, apri la bocca e dai il fiato. Contro il lavaggio di Samoso, e combatterò come un soldato. Questa è Radio Transizione di Fase, piena mente. ocean. chi se la fosse persa, tra 20 minuti all'incirca, minuto più minuto meno, la troverete pubblicata su www.autodiscelle.it e www.ots.it. per quanto mi riguarda, vi do appuntamento a domani. Buonanotte.